schiacciato pugni di lacrime per distruggere i miei mostri, i vostri giorni, sulle mie rime che forse erano anche i vostri, ho mangiato l'amaro delle persone più avverse, tra le mie rime perse, del mio volto sommerso da un respiro triste. Nostre distanze che non si colmano, niente più nella mano avevo se non la fede in un giorno migliore, seguendo un bagliore, superando a velocità le code dei pensieri avversi, dando risposta, bulversi, che non cancellano niente ma dividono dentro e commodellano l'ansia scuro dello stagnante tempo. Ora notte mi fanno fuggire dal duro dolore, e ora la notte mi fa dormire lontano dal duro rancore. Ora notte mi fanno dormire, ora notte mi fanno dormire, mi fanno fuggire dal duro dolore, e ora la notte mi fa dormire lontano dal duro rancore, lontano dal duro rancore, duro rancore. Mergo, mergo, mergo, mergo, mergo. Il bianco rancore nella pesca, superficie lenta, perso dal dolore di speranza, occhi si spengono, stringendo facce che mi appaiono alla mente nella stanza, lascio che il mio rumore scorre a cancelli, poi le tracce, il sapore liscio che rimane nel sangue purificato. Ne descrivo solo il profumo straziato, di lacrime che non scendono, asciutto dal poco affetto, incontrato. Inondato il mio corpo di cicatrici risanate, immergo il mio pensiero in uno specchio, il vecchio del mio mondo appare, mi volto e così continuo a correre, per fuggire la sua frenesia, il tempo che continua a passare, mi pacifico, ritrovo il tempo e le armi, per volare, per volare, per volare. Ora notte mi fanno fuggire dal duro dolore, e ora la notte mi fa dormire, lontano dal duro rancore, mi fa dormire. Fa dormire, lontano dal dolore. Fa dormire, duro rancore, duro rancore. Viaggio coi pensieri giornalieri neri, sembrano il mio cammino della dissolvenza, stanza del rumore oscuro della sola esistenza. Cambiano di essa, pochi soli giorni canelli, alla volta è dismesso da tanti flagelli. Tempo scandito che io continuo a cercare alla porta, l'officina del cuore continuo a scavare, l'odore di una cucina d'emozioni, soluzioni nuove ogni giorno a cercare, torno a sognare poi oltre le ombre, mentre una follia d'ombra, musica, continua a cadere ad amare, continua a cadere ad amare, continua a cadere ad amare, mentre una follia d'ombra, di musica, continua a cadere ad amare, continua a cadere ad amare. Ora notte mi fanno fuggire dal duro dolore, e ora la notte mi fa dormire lontano dal duro rancore, lontano dal duro rancore. Ho lanciato pugni di lacrime per distruggere i miei mostri, vostri giorni sulle mie rime che forse erano anche i vostri, ho mangiato l'amaro delle persone più avverse, tra le mie rime perse, il mio volto sommerso da un respiro triste. Nostre distanze che non si colmano, niente più nella mano, avevo solo la fede un giorno migliore, seguendo un bagliore. Superando a velocità le code dei pensieri avversi, dando risposta, bulversi, che non cancellano niente ma dissolvono dentro, e poi modellano l'altro scuro del grande stagnante tempo, dello stagnante tempo. Ora notte mi fanno fuggire il duro dolore, e ora la notte mi fa dormire lontano dal duro rancore, lontano dal duro rancore. Ho lanciato pugni di lacrime per distruggere i mostri, i vostri giorni sulle mie rime che forse erano anche vostri, ho mangiato l'amaro delle persone più avverse, tra le mie rime perse del mio volto sommerse da un respiro triste, le nostre distanze che non si colmano, niente più nella mano, avevo solo la fede di un giorno migliore, seguendo un bagliore, superando la velocità le code, le pensieri avversi, dando risposta a due versi, che non cancellano niente ma dividono dentro, e poi modellano l'antico oscuro dello stagnante tempo, dello stagnante tempo, dello stagnante tempo, dello stagnante tempo, tanto oscuro.